Lo stesso elemento che fino a ieri connetteva il cavallo da corsa ad un calciatore, oggi li connette entrambi all'opera d'arte pittorica. Da molti anni ormai viene riconosciuto all'allevatore del cavallo che vince una corsa una percentuale sul montepremi, nonostante che il cavallo sia proprietà di un altro, no? E che anzi sia passato più volte di mano in mano. È questione assurda all'onore del diritto. L'allevatore l'ha fatto nascere, l'ha allevato, se poi guadagna qualcosa, la maggior parte di questo guadagno andrà a chi lo possiede, ma il cavallo, come fosse l'azione di un'impresa commerciale, continuerà a rendere una piccola parte di quel guadagno a quella persona che viene individuata come il suo primo produttore, no? Da 5 o 6 anni anche a livello internazionale il criterio è stato applicato al calciatore. C'è una prima società sportiva in cui comincia a giocare, e se le cose si mettono particolarmente bene ci sono altre società che acquisiscono il diritto alle sue prestazioni, e può diventare professionista. Ed ecco allora che una minima parte di quei contratti dovrà essere devoluta a quella prima società. Così come nell'ippica si favorisce l'economia degli allevamenti, così nel calcio si permette alle società di base di continuare a svolgere la loro opera che, se non produrrà spesso campioni, tuttavia farà presumibilmente divertire tanti ragazzi e farà loro praticare uno sport che presumibilmente farà loro bene. Presumibilmente. Ora, il criterio passa anche all'opera d'arte. Sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa è pubblicato il testo della legge attuativa di una direttiva europea del 2001 relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte figurativa sulle vendite successive dell'originale. L'autore, insomma, entro determinati limiti, ha da oggi il diritto di percepire un compenso sulle vendite successive dell'opera, fruendo così del plusvalore che presumibilmente si è andato formando. Se nulla del genere accade per la sedia sulla quale sono seduto o per l'attaccapanni dal quale penzo nel mio giubbino, è perché ontologicamente parlando al prodotto artistico è riconosciuto uno statuto più nobile di quanto sia riconosciuto a quello del prodotto di serie o del prodotto artigianale. Nell'evoluzione della specie umana sul pianeta qualcuno è stato più abile di altri nel propagandare le proprie virtù. Date queste premesse va da sé che sull'opera d'arte finiscano investimenti ideologici davvero cospicui. L'insieme delle cause biologiche in ragione delle quali qualcosa ci piace più di qualcos'altro da tempo è stato rimpiazzato da complicate ragioni di ordine culturale. Godiamo di un brano musicale o di un quadro anche in rapporto ai brani musicali o ai quadri già sentiti e già visti. L'artista spesso riesce ad accalappiare la nostra attenzione grazie ad una variazione che apporta su un repertorio già noto, mentre altrettanto spesso, che ne sia consapevole o meno, altrettanto spesso ci coinvolge emotivamente per aver saputo toccare le corde di una nostra esperienza del tutto privata. Allorché l'arte si esprime con parole, poi, in poesia o nel racconto, nel romanzo, certi aspetti del significato sembrano colpirci più direttamente, inequivocabilmente, per quel margine di univocità che, a torto o a ragione, siamo soliti concedere più alla parola che al segno grafico o al suono. È per questo, allora, che talvolta, ecco, la semplice indagine su un gusto letterario, su quali racconti si legge più volentieri, non so, su quale romanzo si sceglierebbe fra altri mille, la semplice indagine corre il rischio di sfociare fin nell'indelicatezza. A quella scelta ci si è giunti attraverso una via crucis personale, e quella scelta, quando è davvero sentita, quando è davvero attinente ad un'esigenza profondamente vissuta, è un fatto prima che collettivo, ovvero facente parte di un andazzo socialmente condiviso, prima che collettivo è un fatto rigorosamente intimo. Così non sarà esagerato affermare che indugiarvi da estraneo sulle ragioni di questa scelta è un po' come intrufolarsi e rovistare nelle mutande di chi la sta compiendo. In libreria più volte mi è capitato di assistere a scene imbarazzanti. Il cliente che si aggira fra libri e pensieri e che si prende tutto il giusto tempo necessario a che i primi si adattino ai secondi. E lo scatto improvviso, nella fase matura del processo, del finto cliente che, carpendo al volo un libro tra gli scaffali, gli si avventa addosso e gli dice: «L'ha letto questo, è ottimo!» È una novità, non se la lasci scappare. E altre amenità, anche argute, dell'apparato retorico degno del miglior piazzista di dolciumi o di macchinari d'uso domestico. Beh, è l'autore. È l'autore. L'autore che, carico di attese, friggente nel suo tempio come confessore in chiesa mentre aspetta che un peccatore degno di questo nome gli si rivolga chiedendone il servizio, roso da una gelosia universale, non riuscendo a sopportare l'idea che il cliente possa alfine scegliere l'opera altrui, rompe ogni indugio e, ecco, come avesse un acaro nella mente, in un disperato e coraggioso arrembaggio scatta a giocarsi quel tutto per tutto che, seputa caso per qualche forma di pietà, commiserazione o improvvisa e cieca fiducia andasse a buon fine, può salvarlo dal nulla di una resa. Una resa nel duplice significato di un esito a cui si attribuisce il senso del fallimento personale e in quello più prosaico della restituzione del libro invenduto da parte del libraio all'editore. Smette i panni della suppellettile e prorompe in tutta la sua sordida realtà sul proscenio, accelera di brutto le proprie pulsazioni e si svela. E si svela fino al punto che, fidando in quel potere leggermente narcotico dell'autoreferenzialità, dichiara la propria identità e garantisce da sé quella parte di sé che vorrebbe salvata nelle mani del malcapitato di turno. L'ha letto questo? È ottimo. L'ho scritto io. Avendo assistito più volte a queste scene, dicevo, mi sono fatto promotore di una modesta proposta di legge da sottoporre al prossimo governo del paese, che, così come sono state colpite vessazioni d'altro genere, riferite per lo più a zone non meno ignobili del corpo umano, così si colpisca con la necessaria severità la molestia letteraria. E si controllino le librerie, non meno di altri luoghi ideologicamente compromettenti come caserme, bagni pubblici, spogliatoi, cinema, locali bui. Prima di Romeo e Giulietta, ci ricorda la locandina di un film di prossima uscita, prima di Romeo e Giulietta c'erano Tristano e Isotta. Sullo sfondo ci sono i nomi dei due attori, sono piuttosto veloci ma non li conosco. In entrambi i casi i due nomi sono legati da una e commerciale, Romeo e Giulietta, Tristano e Isotta, che in italiano in realtà appare un po' incongrua, ma per una volta passiamoci su. Prima di Romeo e Giulietta, in effetti, non c'erano solo Tristano e Isotta. C'erano Piramo e Tisbe, Ero e Leandro e chissà quante altre coppie inappagate e infelici. Il mito dei due innamorati, cui una quantità di complicazioni familiari, coniugali o comunque di tipo sociale impedisce di coronare, come si dice, la propria passione, è uno dei più diffusi nella nostra cultura. L'hanno raccontato in tanti e in tanti modi, da Ovidio a Museo, dai Trovatori a Shakespeare, e non c'è da stupirsi che ne sia stata approntata la nuova versione su celluloide. E non è neanche il caso di turbarsi pensando agli sforzi che autori e interpreti in teoria hanno dovuto compiere per mantenersi all'altezza di tanto eccelsi modelli, perché l'autrice della colonna sonora, per esempio, ha avuto qualche problema a doversi misurare con Wagner, perché comunque queste tematiche trascendono le singole realizzazioni artistiche e ogni opera si presenta per quello che è senza dover temere inopportuni confronti. È uno dei vantaggi di cui si gode quando si decide di musicarsi direttamente con i grandi archetipi. Che sono sfoggiati?